quanti, alle nostre ospiti, a Giuliana Canzavecchia, a Floriana Gavazzi, vi ringrazio tantissimo. Sono noi a ringraziare Valeria. No, questa volta ringrazierete voi, perché per un motivo molto semplice. La biblioteca è un'istituzione che vive continuamente di stimoli e che poi ha il compito di riproporli al pubblico. E in questo periodo la biblioteca provinciale Claudio Augusta, che è via Mendola 5 a Bolzano, si muove sul territorio perché ha una sede così costretta e è in attesa del polo bibliotecario. Allora, per essere anche, non dico attraenti, ma riuscire sempre a proporre dei nuovi percorsi, delle nuove sollecitazioni, abbiamo bisogno anche di stimoli e di proposte. Giuliana Lanzavecchia ci ha scritto una mail e ha detto: beh, non possiamo perdere questa occasione, ci siamo subito agitati e per fortuna, anche grazie alla sua disponibilità, siamo riusciti a realizzare questa serata che vedo è ben frequentata, ci sono tanti giovani, cosa che vi garantisco non capita spesso alle iniziative così, di promozione, di letture, di incontro con l'autrice o con l'autore. Ecco, il mio intervento rimane congelato qui, nel senso che io vi ringrazio tantissimo, ringrazio le nostre gentili ospiti, ringrazio voi di essere venuti e vi invito anche a tornare a visitare la nostra biblioteca Errante, l'abbiamo definita così, e andremo avanti ancora per qualche tempo. Per quanto tempo, perché il polo bibliotecario. Il polo bibliotecario è una chimera che vedremo, insomma. Grazie, arrivederci. Grazie. Buonasera a tutti, questa sera è una festa, lo è già stata nel momento dell'arrivo, dei saluti, del ritrovarsi, e vuole essere proprio una piccola celebrazione, perché il bric-a-brac, diciamo, si è spento, si è esaurito un po' in silenzio, non c'è stato un momento in cui si è celebrato la fine di questo percorso e la vogliamo fare adesso, questa piccola cerimonia. Lo facciamo perché è uscito il libro di Giuliana Lanzavecchia, Teatro e Arte, un'idea diversa di teatro dei ragazzi, della serie I quaderni di Facciamo Teatro e Lezioni in Corsare. E bisogna anche dire che se bric-a-brac non fosse finito, questo libro non ci sarebbe, perché Giuliana sarebbe tutta ancora indapparata all'ospite spettacolo, quindi non avrebbe avuto il tempo di scriverlo. Ovviamente il libro poi, per chi vorrà acquistarlo, è più disponibile, ce ne sono copie a sufficienza, portate con la valigia, e quindi sfruttiamo l'occasione di avere qui con noi di nuovo Giuliana Bolzano dopo mesi, anni addirittura, che non venivi neanche per il dentista, perché voi sapete che il dentista Bolzano è vero, è nato il dentista, vero, vedete che la conosco bene. sì meglio di io volevo iniziare con alcune domande, poi se ci saranno anche domande dal pubblico ben vengano. Allora, intanto miei ricordi personali: ero appena arrivata a Bolzano, giovane giornalista Rai, e sono stata mandata in via Pintler, al centro giovanile di via Vintola, a fare un servizio sulle prove di uno spettacolo di questo teatrino per ragazzi, e lì ho conosciuto Giuliana. Era il 1998, abbiamo calcolato che era il 1998. Prima del 2000 comunque, sicuramente. 18 anni fa, pensate. E lì è nata la nostra amicizia, è nato il feeling, anche perché devo dire, io provengo comunque da studi filosofici, da studi teatrali come Giuliana, e quindi è nata questa amicizia. Sì, e da allora più o meno ho sempre fatto i servizi su tutti gli spettacoli del bric-a-brac, li ho visti tutti, se li assorbiti. Ho conosciuto un po' anche tutti i patemi, tutte le preoccupazioni, tutte le stanchezze, i momenti di fatica, i dubbi, perché Giuliana poi è una perfezionista e quindi ogni piccola cosa che non andava per il verso giusto diventava un elemento così di preoccupazione, no? Però ricordo anche questi bellissimi debutti, queste bellissime serate, l'entusiasmo. entusiasmo che c'era poi alla fine sul palco, nei camerini, e veramente sono stati momenti unici, credo, per voi, ma anche per la città di Bolzano, no? Un teatro così è stato davvero un onore per la città di Bolzano. Partirei però da questa domanda a Giuliana: perché è finito Bric-a-Brac? Partiamo dalla fine e poi facciamo un percorso a ritroso. Bric-a-Brac è finito come, diciamo, ogni percorso, diciamo un pochino, come ogni percorso è una parabola, quindi questo non hai capito. No, aveva detto che mi mandava l'altro lavoro. Grazie, per questo vale. Che piacere, buonasera. Benvenuto al dottor Lampi. Diciamo che anche lui ha avuto un bel ruolo in questa storia, che stiamo facendo. Parte molto importante. Comunque, per rispondere alla domanda di Floriana, perché è finito Bric-a-Brac? Dicevo, ogni percorso è una parabola, quindi una parabola discendente, al suo sviluppo, e poi ti accorgi quando c'è la fase calante, quando si avvicina al punto di fine, di chiusura, per tanti motivi, e personali e non. Diciamo il gruppo storico, quello che ha portato avanti tutta la crescita del percorso Bric-a-Brac, ovviamente ormai erano diventati grandi, per cui sono andati all'università, sono andati via, era impossibile continuare all'estero. Per quanto riguarda i nuovi afflussi, c'era un convincimento meno intimo, meno profondo, e si vedeva che pian piano quella spinta propulsiva andava esaurendosi. Io poi ho avuto delle vicissitudini personali che tutti quanti conoscono, per cui è inutile stare a raccontarle ancora una volta. E niente, c'è stato un ultimo sussulto di Bric-a-Brac con una piccola presentazione del pianeta degli alberi di Natale, fatto con le più piccole, che adesso sono troppo piccole, c'è dei sangoni qui davanti. E poi ognuno è andato per la sua strada. Credo che a voler continuare a porzioni le cose sarebbe stato un non continuare su quello che era l'essenza del Bric-a-Brac, per cui avevo anche in ogni caso già deciso di lasciare la città e di andare via, e quindi abbiamo dato questo ultimo appuntamento alla città, e dopo, ecco, il Bric-a-Brac è rimasto per quello che ha saputo dare di veramente importante, e continuare su magari qualche cosa di meno impegnato, più modesto, eccetera, non mi pareva giusto nemmeno proprio per la storia di Bric-a-Brac. Per cui quando ti accorgi che la cosa va verso la fine, è inutile forzarla ulteriormente. Facciamo un salto indietro e chiediamoci adesso perché è nato e come è nato Bric-a-Brac nel 1998. Nel 1998. Allora, questa è una cosa che ho raccontato comunque nel libro. A parte i miei trascorsi da studente, poi da assistente a Milano con Strehler al Teatro di Piazza del Cuoco, che era il decentramento voluto da Grassi, a Torino con una compagnia molto di nicchia, ma che comunque faceva dei lavori strepitosi di teatro, musica e arte per i bambini. E, per esempio, vi ricordo un microcosmos di Bartok, di Bella Bartok, con un impianto scenico su legno di Ugo Nespolo, quindi assolutamente raffinatissimo, per le materne. Ed era negli anni, inizio anni 80, era veramente una cosa che rompeva moltissimo gli schemi del teatro. C'era una boîte à joujou bellissima, sempre con gli interventi di Ugo Nespolo, c'era un Bonjour Rossini con l'esecuzione dal vivo del pianoforte dei Pesci e delle Iene. Dunque io ho imparato lì con Streber che cosa significava offrire ai ragazzi e ai bambini un certo tipo di qualità che non era soltanto la favoletta da raccontare con i burattini, con le marionette, che va benissimo, per carità, nessuno toglie niente, però c'era questo più che mi ha proprio affascinato subito. Venuta a Bolzano, avevo i bambini piccoli, ho lasciato da parte tutto questo, e un giorno al parco, quando le ho portate, questo è raccontato, c'era questo animatore teatrale che improvvisava con i bambini, con le palle, i nastri, i tamburelli, non so ben altro, so che tutti i bambini si divertono ovviamente. A un certo punto una si è alzata e ha detto: a te ti piace quello che fai? Cioè è questo quello che fai tutto il giorno? È questo il tuo lavoro? Mio papà cura la vigna. Quando ho deciso di riprendere il tipo di formazione che avevo avuto prima, questa domanda mi è subito venuta: dico, cosa vogliono i ragazzi e i bambini da un adulto quando li si fa entrare in un campo che è di esplorazione nuova culturale? Non è quello che sa già fare, perché giocare con i nastri e le palle, insomma, ce la fa benissimo da solo senza bisogno che un adulto glielo vada a insegnare. E quindi mi è ritornato sia il lavoro fatto a Torino, sia il lavoro fatto a Milano con Streller, a Piazzale Cuoco, e ho detto: io non sono una docente, non sono una pedagoga, non sono un'esperta di un bel niente, proprio zero. Sono una che ama le cose belle, sono una che ama le cose fatte bene, e allora ho fatto mio un proverbio giapponese che è: il bello è la conseguenza del giusto. E se c'è una cosa che i bambini hanno di profondamente radicato è il senso della giustizia. Non gliela si fa per niente, cioè non li puoi ingannare, assolutamente. Non ti puoi presentare con qualche cosa che poi non sei. Perché cos'è la risultante? La risultante è che o sghignazzano dopo un po' perché a forza di giocare a palla poi si stufano, oppure si annoiano spaventosamente. Quindi devi dare un qualcosa che loro non hanno, che devono conquistarsi, verso cui devono appassionarsi, incuriosirsi. E per me è stato il mondo dell'arte, che a scuola viene toccato e non toccato. Io capisco i programmi, i progetti, per carità, lo capisco perfettamente, però non è che sia una grande esplorazione quella che si fa a scuola. Ho pensato al teatro come un veicolo, un vettore che potesse in modo divertente, che poi qui adesso arriverà un casino divertente, ma se sei una strega non la quanto. Comunque resta un momento di anche ludico, diciamolo, senza di me. Era tremenda, Lo sono ancora, per carità, mi sono cambiata dal punto di vista. Faccio una piccola parentesi per dialogare, perché poi sono quando parto. Un altro flash quando sono venuta in via Egerliens, anche lì molti di voi, quanti di voi hanno fatto la scuola in via Egerliens? Praticamente c'era. Lì ho seguito una lezione perché volevo fare un servizio non solo sugli spettacoli ma anche su quello che c'era dietro, no? Mi sono resa conto veramente del rigore di Giuliana. Mi è venuta in mente anche la mia vecchia maestra di danza classica, perché io dai 6 ai 16 anni ho fatto danza classica. Questa era non la sapevo. La Lida Bianchi, si chiamava Lida Bianchi, era una vecchia maestra di Milano, nata nel 1918, che nel 1936 aveva partecipato alle Olimpiadi della danza a Berlino, e la sua maestra era una russa. Lei si era formata alla Scala di Milano, ma con una russa. E devo dire che ho visto in te quel rigore. Io ho sempre detto che a Brica Branca ne arrivavano 10, ne restava mezzo. Per avere un'unità bisognava che arrivassero in 20 come minimo, per cui ci scappavano tutti. Mi vedevano meglio dall'altra parte, che con questa non si sopravvive. Quindi, però i risultati poi c'erano e si vedevano. I risultati ci sono stati, questo sì. Bene, direi che con questo abbiamo raccontato un po' gli esordi, no? primo, poi immagino insomma il primo gruppetto fatto da pianerottolari, erano gli amici di pianerottolo più o meno. E poi pian pianino sono arrivati gli spettacoli. Ecco, nel libro, perché cominciamo anche a parlare un pochino del libro, hai scelto quattro spettacoli che sono un po' i quattro pilastri anche dal punto di vista metodologico della storia del Bricabrac: lo Schiaccianoci, lo Specchio di Alice, il Flauto d'Amor Perduto e l'Orlando Furioso. Faccio un piccolo test: quanti di voi hanno partecipato allo Schiaccianoci? Qui i più vecchi. No, no, perché queste le edizioni, le versioni, no, più piazzi, Specchio di Alice, più o meno tutti, perché Specchio di Alice è stato un evergreen, no? Lo hai ridato parecchie volte. L'ho ridato parecchie volte e poi c'è, beh, insomma, questo è quello racconto di sempre, c'è proprio questo. L'Auto d'Amor Perduto? Si comincia ad assottigliare. No, c'è stato qualcuno che ha partecipato come papagenina. Ok. L'Orlando? E l'Orlando è sempre qui. Ok, allora cominciamo questa carrellata, magari anche con qualche immagine. Allora, io ovviamente, a parte il fatto che tutti quanti hanno fatto gli spettacoli, quindi a rivedere, non lo so. Penso che forse, per chi è qua, sia più interessante... Ciao Carlo. Grazie di essere venuto. Sia più interessante vedere, allora, visto che si tratta di teatro ed arte, il lavoro che ho fatto in Tunisia adesso, ed è una ripresa in arabo, capito benissimo la parola, l'arabo e francese, della Mondi, però come scenografia è l'animazione virtuale dei quadri che Klee e Kandinsky hanno fatto in Tunisia, nel deserto e a Hammamet, a cui ho aggiunto alcune immagini di Unterwasser, perché come tratto grafico, come colori eccetera, è un impatto per i ragazzi, per uno dei ragazzi molto che prende parecchio. E qui si tratta proprio soltanto di teatro e arte, nel senso non ci siete voi di mezzo che rompete l'anima, cioè soltanto se volete vedere qualche cosa di questo, o altrimenti se vi volete rivedere. No. Allora Andrea, non è che sei diventato l'icona bolzanina adesso, è solo per quello, sentire la voce. A parte che non è vero, è chiaro. Non so, partiamo da quest'ultima cosa della Tunisia, così capiamo anche cosa sta facendo adesso Giuliana, no? Perché ecco, siamo un po'... Questo lavoro comunque avrebbe vinto il Giappone, a cui vado perché mi hanno invitata per fare, tenere delle lezioni, dei workshop, o chiaramente i beduini si sono ritirati e io non ce la volerò mai più con gli arabi, con questo è chiaro. Allora, adesso c'è qualcuno che è un po' più navigato di me? Ciao, dai Andrea, vieni a fare la mano. Come si fa? Guarda, quanti di voi sono andati in Giappone? Quanti di voi sono andati in Giappone? Sempre quelli. Basta, finito. Per quei pochi che non lo sapessero, il Cabracca ha vinto il Festival Mondiale del Teatro Ragazzi in Giappone. Non so più l'anno, ma ha vinto nel 2004 con lo Schiaccianoci, nel 2008 con con il flauto. E adesso c'è un sigillo per piano. Allora, non lo so quale dei due bisogna spegnere. Era questo che faceva interferenza. Dobbiamo Allora, chi ha fatto la Mombi si ricorderà almeno le musiche. Adesso vediamo, vai sulla porta. Ed è la tesi di laurea magistrale di una studentessa di Brera. arriva la torta e noi ci abbiamo messo la torta che è un quadro di... No. Questo è Kandinsky. Questo è Kandinsky. Per esempio... Porca miseria, adesso come si fa a tornare indietro? Come faccio a tornare indietro? Riproduci di nuovo la X? Sì, perché io sono... Ecco. Allora, mentre qua andiamo a due volte. Questo è un Kandinsky che riconosco. Questo era il deserto della morte. E questo è? Maramei, se qualcuno se ne ricorda, è sempre un filibuster con le famose cupole di smeraldo che in realtà sono più secchi che arrivano. Poi per quanto riguarda, per esempio, adesso ascoltiamo la preparazione di quel presepio. Il palazzo di Mombi. TikTok? Questo è TikTok. Questa è quella che mi piace di più. Per il palazzo. Lo schiaccianoci futurista. Perché lo... Magari ne vediamo due o tre minuti. Ogni momento. Inaugurata al Centro Trevi la mostra Tempo e Denaro, una mostra multimediale che vi invito ad andare a vedere perché è molto bella, parla del rapporto tra il tempo e il denaro nella storia dell'arte e indovinate con cosa inizia? Con Alice nel Paese delle Meraviglie. Quella è terreno mio, E con l'equivalenza del tempo che diventa denaro, che diventa conteggiato in scellini, no? Per dirvi come ci sono poi degli strani, no? Delle strane ricorrenze. E allora passiamo ad Alice. Ecco Alice, niente, lo voglio dire perché questo qui è il mio punto, no, ma mi sentite lo stesso, cioè mi ha bisogno anche di questo in fondo? Sì, penso di sì, e credo che sia una delle soddisfazioni per me più grandi è quella di essere stata invitata questo settembre, cioè nell'articolo del dottor Zamboni c'è una piccola imprecisione, questo settembre c'è stato la celebrazione a Cambridge dei 150 anni della pubblicazione del testo di Alice, del primo, dell'Alice nel Paese delle Meraviglie. E Cambridge ha soffiato ad Oxford, per quanto Carol fosse di Oxford, le celebrazioni e hanno invitato sto povero bricabrac, veramente. Sono stata invitata ad esporre il lavoro, con un paper chiaramente, perché non potevo portare lo spettacolo. E, in quanto unico al mondo spettacolo per i ragazzi, con i ragazzi, bisogna fare questo distinguo, perché per i ragazzi di compagnie professionistiche, cioè, di adulti ce ne sono tante, sulla logica formale. E ha avuto un enorme successo, tanto che adesso sono invitata in America da un docente che quando l'ho visto gli dai due cicche bucate, un professore che si rimbocca i pantaloni in fondo invece di tirarseli su, i capelli lunghi, cioè boh, questo qui è, me l'hanno detto dopo per fortuna perché al momento mi occultavo di soldi di attenzione, il più importante professore americano di letteratura inglese vittoriana per ragazzi e niente, con lui adesso è nata una collaborazione, mi ha invitato nell'Illinois con l'Alice, dico chi me la fa l'Alice? Per parole povere. Noi! Vediamo. E scrivere su due importantissime riviste accademiche, una di teatro e l'altra di letteratura, per cui l'Alice figura ha un piazzamento veramente di prestigio e ne sono molto orgogliosa. Per cui a me mi manca, diciamo, la materia prima per portare una Alice, perché non si riesce più a trovare qualcuno che possa subire le angherie della Giuliana, mettiamola così, e questo mi dispiace, però almeno per iscritto va. Allora vediamo il pezzettino di Alice. Aspetta però, sì, sì. Senza occhiali faccio veramente... eppure Martin Gardner da primo copiato è loro, l'americano. Allora, il flauto perché aleggiava nell'aria prima del 2007, che è stato ovviamente messo in opera in cantiere prima del 2006, il fatto che c'erano le celebrazioni mozartiane nel 2006 e niente, flauto magico, a parte che è sempre stata una mia passione, sono una fanatica di Mozart, e poi niente, volevo un po' esplorare il mondo poesia e musica della poesia, ecco perché abbiamo fatto questo azzardo, forse non perfettamente riuscito, ma insomma non tutte le cose sono proprio equilibratissime tra la proposta di Shakespeare come poesia e musica e la proposta invece di Mozart, musica e poesia. E abbiamo fatto un po' questo E la sceneggiatura quindi ci voleva tutto un lavoro anche di conoscenza del testo, di conoscenza del testo, delle radici, perché poi anche lo stesso libretto di Schikaneder ha delle radici che portano a un Oberon. L'ho scritto nel libro com'è che si è arrivati da certe proposte letterarie sul su Shakespeare per arrivare a Mozart. Questo è tutto che è scritto nel libro, comunque, questo sì. Adesso non so, passiamo al flauto. Vogliamo vederlo allora un po' di flauto da Monteduto? Non lo so. No, mi sembra che ci sia un po' uno strascico. Questi siete voi. Incubo! Giappone. Quello, ho messo qualche immagine dal Giappone, sì. E poi manca l'Orlando. L'Orlando, forse è il mio preferito, sì. Personalmente, sì, l'ho trovato bellissimo. Ma io il mio preferito ricordo, è chiaramente Alice. Ricordo le musiche straordinarie. Ecco, quello che mi hanno sempre prima rimproverato con molto scetticismo, come fai a fare sta miscellanea eterogenicissima di generi musicali, c'è cioè una cozzaglia che non sta in piedi, eppure poi funzionava alla fine. Sì, abbiamo mescolato un po' di più. Allora. Scendersi di là. capitato. E perché nel destino padre in quel mondo dove conno che ne verranno la vita nasceva. Professoressa Lina Bolzoni, che è la più importante, credo, docente normale di Pisa di letteratura del Cinquecento, che ha commissionato un lavoro sull'Orlando, si chiama Lo specchio delle immagini. L'Orlando sotto tutti i punti di vista, dalla critica letteraria, figurativa, drammaturgica, musicale, c'è di tutto. Sono 600 pagine, noi ci abbiamo 20 righe, però siamo vicini a Ronconi. E questo ed è un lavoro svolto da Francesca Bortoletti, che è una dottoranda dell'Università del Minnesota. È uscito, volevo comprarlo per 1250 euro, gliel'ho lasciato là. 50 euro il volume, è un volume strepitosamente bello, delle immagini bellissime, solo che tre Natali non ce l'ha fatto. 1250, ce l'ho ovviamente in bassa risoluzione con WeTransfer, però è un fior d'onore, veramente un fior d'onore. Adesso la famosa associazione Bradamante, che è l'associazione italiana degli studi di sull'Orlando Furioso, e ha invitato non solo a presentare il libro, ma anche lì a portare l'Orlando, appunto, con chi non lo so, e quindi rimangono così disattese certe cose, che comunque sono sempre una risposta positiva al tipo di lavoro fatto. Che si possa o non si possa riproporre, rimane sempre l'interesse, che forse è la cosa davvero importante e che mi gratifica e dovrebbe gratificare parecchio anche voi che l'avete fatto, e senza di voi che mi avete sopportata. Ecco, la mia ultima domanda, anche se in parte hai già risposto, sì. Che cosa è e che cosa fa oggi Giuliana Lanzavecchia? Alcune cose le hai già dette, forse puoi completare il quadro, no? Di cosa ti occupi dopo la fine di Bric à Brac? Dopo la fine di Bric à Brac, appunto, ho consulenze, sono stata a New Delhi a portare il lavoro, questo tipo di metodologia di lavoro, cioè teatro d'arte, in Marocco, a New Delhi, c'è stato questo anno e mezzo in Tunisia. Ho l'invito adesso per gli Stati Uniti, quindi continuo. Ecco, la cosa che dispiace è che si continua senza un gruppo proprio con cui poter avere quel tipo di fiducia, poter continuare, ecco, a proporre cose nuove. Sono interventi che hanno una durata e temporale di proposta più limitata, però vedo che interessa parecchio, e qui devo ringraziare ovviamente Bolzano, che ha permesso di poter costruire tutto questo, e che questo tipo di messaggio abbastanza inusuale, perché anche lì in America continuano a dirmi unusual, e vabbè, però da una parte mi chiedete la creatività italiana, dall'altra troppo unusual, decidetevi un po'. Però interessa parecchio, insomma, speriamo di poter, con calma, me le faticate di prima non le faccio più. Tra l'altro, nella introduzione di Claudio Facchinelli, che è un esperto anche di logica formale. No, lui è un matematico esperto di logica formale, sì. Intanto fa un complimento ai genitori del bric-a-brac, che mi sembra carino raccontare. Cioè dice, di solito quando vado in giro a vedere spettacoli per ragazzi, vedo genitori l'uno contro l'altro per avere, perché il proprio figlio abbia il ruolo da prima donna o da primo attore. Diceva, e invece qui ho trovato un... Ed è vero, devo ringraziare, qui faccio i nomi, Armita, Maria Pia e Sandra, che senza di loro, l'ho sempre detto, non si sarebbe assolutamente riusciti a fare quello che è stato fatto. C'era solidarietà appunto tra loro, c'era una bella intesa, zeppa di attriti e frizioni, ma vabbè, con me non è difficile non averne. Però. E poi l'altra cosa che dice è che il bric-a-brac è difficilmente riproducibile e quindi poco esportabile, cioè dice rimarrà forse qualcosa di unico. Così anche perché qui ha trovato il terreno giusto dal punto di vista dei finanziamenti, sì. Perché era un teatro per ragazzi che insomma qualcosina costava, no? E se non ci fosse stato l'aiuto, soprattutto per i viaggi in Giappone, della provincia, un aiuto, un supporto convinto e continuativo soprattutto, per cui ha consentito a bric-a-brac di esistere e di portare questo messaggio in giro. E qui proprio ringraziamento a provincia, al comune, che hanno proprio veramente sempre supportato. E poi conclude con una nota un pochino amara, perché dice in fondo il bric-a-brac ha avuto più visibilità all'estero che non in Italia per la miopia culturale del nostro paese. Cosa ne dici, Giuseppe? Troppo assolutamente d'accordo. Io, ecco, con questo professore americano che è famoso, tira sui pantaloni in basso anziché tirarseli su, io scrivo. E dopo 2 minuti, qualsiasi ora io scriva, l'una di notte, alle 3 del pomeriggio, lui mi risponde. Mi ha rimandato il paper corretto a mano. Il professore americano, che ci avrà non so quanti studenti e non so quante persone che lo interpellano, perché sono l'ultima arrivata, l'ultima ruota del carro, un'italiana incontrata per caso a Cambridge, si prende la briga e poi I'm so happy to help you out, di darti una mano. Porca la miseria, non ho capito bene. 2 minuti. Qui in Italia scrivi, 3 mesi dopo ancora non ho da aprire la lettera, se non è già finita là nel cestino. Purtroppo è così. Purtroppo è così. Bene ragazzi, se avete delle domande da fare alla vostra vecchia maestra. Vecchia sì. Vecchia nel senso del passato, insomma. Ma ancora ottimamente in forma, devo dire, che ti ho trovato conservata. Conservata. O anche solo un ricordo, una testimonianza, un aneddoto. Ora te lo posso anticipare io. Sì. La strega. Qualcuno mi ha definito nazista questa sera. Ecco. Non so se sapete, forse lo sapete perché qualcuno di voi sicuramente ha anche scritto, ma il libro si chiude con alcuni ricordi degli ex allievi che dicono che cosa è rimasto dell'esperienza di bric-a-brac, no? E devo dire, sono cose anche molto belle. Sì, ce n'è qualcuna veramente che mi ha commossa. Le ultime 3 testimonianze sono di Alice, Bianca e Nicole, che sono che non ci sono, ma ci sono. Magari ci racconti che cosa fanno brevissimamente. Alice lavora, ma è 3 anni che lavora. Bianca sta finendo il dottorato, anche lei purtroppo ha seguito la strada mia, mannaggia. E comunque già insegna all'università. E Nicole arti dello spettacolo a Nizza, no? Lei barocco e rinascimento, non confondiamo. Leggo qui dottoranda in atti dello spettacolo. Sì, sì, perché poi insomma è quello il dipartimento. E Nicole al primo anno di specialistica in lingua e cultura giapponese, gli è rimasto l'imprimatur del Giappone. La parla giapponese. Leggo la testimonianza di Andrea, visto che è quello che è diventato, insomma, con il brattaro ha avuto un successo, mi dicono, molto, insomma, molto importante. Per me sei stata una maestra a tutto tondo, mi ha insegnato l'arte del teatro e della vita. La tua determinazione, la serietà nell'affrontare le diverse sfide, la cultura sono state lezioni fondamentali. Non dimenticherò mai lo sforzo per ricordare tutto quello che dovevamo tenere sotto controllo. Lo facevi apposta, ma avevi davvero ragione quanto ho imparato. E io aggiungo, magari ci fossero insegnanti così a scuola, Bene, io ringrazio tutti quanti, sono molto contenta che la sala è piena, di avervi rivisto in così tanti e così numerosi. Però appunto abbiamo ancora qualche minuto se volete intervenire. Prima che, prima che si spengano le luci. Se ti ho spento adesso. Cioè io devo avere il tocco magico per distruggere lo sto computer. A me piacerebbe ricordare tantissimo, cioè questa scuola di vita, io ricordo, no? Che mio figlio è uno degli ultimi che è arrivato. Dov'è Diego? Non c'è, quindi tutto c'è tantissimo. Non c'è? E non c'è, aveva un appuntamento e non è riuscito mai. Lo saluti tanto. Esatto. E lui proprio diceva questa cosa, beh, innanzitutto il discorso bellissimo che lei faceva sempre all'inizio dell'anno, cioè non c'è la prima donna, non c'è la prima donna e tutti gli altri fanno andata a pezzi e gli altri. Dava proprio risalto a tutti i ragazzini, tutti avevano una parte importante. E ricordo Diego una volta nella Lice, dove bisognava srotolare questi teloni, incubo i teloni, e diceva, mamma mi diceva, io preferirei stare in scena perché se sbaglio una cosa la responsabilità di tutto, sia di quando si è in scena sia di quando si dovevano fare le manovalanze dietro le quinte, che però erano altrettanto importanti, questo è verissimo. Comunque bistrattati tutti alla stessa maniera, non... senza favoritismi sul maltrattamento. Che cosa è rimasto di bric-à-brac adesso che fate altre cose, adesso che vi dedicate ad altre cose? Abbiamo altri interessi sicuramente. Io direi il coraggio. Perché? Nel mescolare, cose immescolabili. Bravo Marco. Forse nel design poi. Cosa fai adesso Marco? E mi sono laureato in filologia classica e insegno latino all'Università di Padova. Io vorrei chiederle, sei convinta che sia la cosa giusta qui da... Ascolta. A parte l'età, non ho mai visto. Io la fatica che... Ma è diverso dal tuo che ti ho visto. Ma è vero, ma anche più tua energia di prima. Ma mi sono fatto 5 anni. C'è un ripozzo di 5 anni. Mi stancavate, ragazzi. Chiudere, ascolta. Quello che diceva anche... In qualche maniera hai qualche rimorso nella vita? Beh, rimorso o rimpianti? No, quello assolutamente non li devi dire. Se sei convinta di aver svolto un certo tipo di percorso e hai capito che insomma si arrivava alla chiusura, è inutile stare a rincorrere o pensare a rimorsi e rimpianti. Certo, non posso negare, perché questo è innegabile, che era la mia vita. Era la mia vita. Voi ci avete ancora un bel po' di roba da mettere in cantiere. E quindi difficile riprendere, difficile ricostituire. Peraltro anche Claudio Facchinelli lo scrive che più che la storia di una qualsiasi scuola teatrale dove si va, si viene, c'è un rinnovo ogni anno, questa è stata una crescita vostra, siete partiti e anche gli spettacoli con voi sono cresciuti in complessità, in proposte, in portate, quindi era diciamo un rapporto, io vi do ma anche voi mi date, perché alla fine dei conti siete cresciuti con questo tipo di approccio verso l'arte, verso il teatro, e non è stato né semplice né facile né non è costato fatica. Mi sarebbe piaciuto una volta avviato, una volta verificato che si era arrivati a certi risultati importanti, poter consolidare l'esperienza e farne un qualche cosa di stabile, di vivo. Di... Non è andata così. E quindi riprendere tutto quanto. Certo, se qualcuno mi offrisse, ma non capita, te lo dico subito, qui c'è una scuola con tot di allievi, tu vieni e proponi le tue cose, questo mi andrebbe bene, ma qui non avviene. Alle altre parti avverrebbe se mi decidessi di espatriare davvero del tutto, solo che non lo posso fare, almeno al momento non lo posso fare. E questa è anche la situazione italiana, è la situazione italiana dove ci sono possibilità, potenzialità, dove ci possono essere risorse, eccetera, e poi va a finire che le si lascia languire ed esaurire da sé. Così le eccellenze andrebbero forse le eccellenze andrebbero ecco quello che adesso il dottor Lampis mi fioci al momento quello che forse se c'era un convincimento sul bric-a-brac era quel pizzico di coraggio per farne una cosa che poteva rappresentare, perché poi me lo chiedono in Giappone, me lo chiedono in America, me l'hanno chiesto a Cambridge. Ma come mai una cosa come questa, che è unica, non c'è più? Oppure è andata avanti, diciamo, ho chiaro, con le forze, diciamo, intellettive mie e con il supporto ovviamente finanziario della provincia, del comune, ma non è diventata una cosa istituzionale. Vai a rispondere. E perché? Perché in Italia è così. Perché ci sono le istituzioni e poi forse i cosiddetti cani sciolti a volte hanno successo, riescono, e a volte quando chi le mette in atto decide di finire, finiscono. Così è. Sì, Giuliana è sicuramente un cane sciolto. Sono anche contenta di esserlo stato un cane sciolto. Sempre è stata, diciamo, un po' refrattaria, no? A certe forme di compromessi, o e sei sempre stata anche un po' forse individualista, nel senso che tu avevi la tua linea, però io sono convinta che se sentissi ciascuno di voi mi racconterebbe qualcosa di quello che fa oggi che ha a che fare col bric-a-brac. Non lo posso fare con tutti, ma sono sicura, e quindi sono sicura che il bric-a-brac ha dato i suoi frutti e voi siete la manifestazione vivente, quindi ci facciamo un bel applauso a noi.